capisco, è una cosa normalissima. In Italia ci sono migliaia, milioni di persone che prendono due pensioni, diciamo. Il direttore Giordano fa una proposta: coloro che beneficiano di un doppio vitalizio, perché non rinunciano a uno dei due? Ah, che proposta intelligente, molto bene. Signora, ma non mi faccia ridere, sì, per cortesia. Che non rinunci a lui, diciamo, alla sua pensione che prenderà da direttore di giornale e a tutti gli altri emolumenti. I direttori dei giornali, prima di occuparsi delle pensioni degli altri, dicano: noi abbiamo titolo per poterci occupare delle pensioni perché noi guadagniamo tanto, e se guadagnano assai dicono loro a quanto hanno rinunciato. Con questo moralismo stiamo arrivando a grido, cara signora, in questo paese.